come già annotava Carlo Zaia, segretario del CRAP, Deus ex machina, figura di grandissimo rilievo che ha dato una spinta incredibile al pioniere, è Gianni Rodari, al tempo, nel dopoguerra, giovane personaggio della cultura italiana, legato sicuramente alla sinistra del PC, ma legato anche a idee molto innovatrici nella pedagogia, nel racconto ai ragazzi, che ha in qualche modo lavorato sul pioniere creando un prodotto assolutamente importante e che poi si ritroverà molto spesso nelle novelle successive, quelle che hanno portato i Rodari della edizione Inaudi a toccare i vertici della popolarità, con riconoscimenti quali il premio Andersen, un premio internazionale che solo in due in Italia hanno conquistato, uno è Gianni Rodari, l'altro è Alberto Manzi di Orzo Way. Ricordiamo che Gianni Rodari fu direttore assieme a Ardina Rinaldi del pioniere in anni cruciali, quando poi lasciò la testata affidando alla Rinaldi tutto il compito della direzione per andare a dirigere invece Avanguardia, altro giornale per ragazzi sempre all'interno del Partito Comunista Italiano. Ma dove sta la grande importanza di Gianni Rodari e della sua innovazione del racconto per ragazzi? Cosa aveva di tanto particolare questo giornale, Il Pioniere, diretto da Rodari? Era l'unico giornale allora che parlava degli ideali della Resistenza, che legava i valori del primo a quelli del secondo Risorgimento, che parlava delle lotte dei lavoratori, parlava della pace, parlava del mondo del lavoro, un giornale che rivedeva posizioni fino allora comuni, cioè affermava l'uguaglianza tra le razze, l'uguaglianza tra i popoli. Queste cose, che ora sono normali, allora in certi ambienti, in larghi ambienti, facevano anche scandalo. Rodari, per questo, è stato osteggiato, violentemente combattuto. E ora si può anche sorridere un po', ma anche un po' amaramente, di un fatto simile. Comunque, Il Pioniere resta un'invenzione di Rodari, forse la pagina più significativa del giornalismo per ragazzi. Giornalismo laico, giornalismo progressista, razionale. Ma se noi pensiamo al Rodari successivo degli anni 60-70, il Rodari accettato poi da tutti, quando editori e colleghi e critici convergono su quelle che erano state le linee tematiche inventate e per il giornalismo e per la cultura italiana per l'infanzia nei primissimi anni 50, ecco, se noi pensiamo al Rodari degli anni 60-70, quello che tutti conosciamo, l'autore di Gelsomino nel paese dei bugiardi, l'autore del pianeta degli alberi di Natale, delle favole al telefono, del libro degli errori, dei 20 novelle fatte a macchina, della torta in cielo, cui è stata ispirata in questa borgata del Trullo, e qui è stato anche girato il film che è stato tratto dal libro. Quando pensiamo a Rodari, universalmente accettato e conosciuto da tutti negli anni 60-70, non, per conoscerlo veramente, per apprezzarlo veramente, dobbiamo forse vedere meglio il Rodari rivoluzionario, il Rodari demonio, diavolo, dei primi anni del 51. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore. Non solo Gianni Rodari o la Dina Rinaldi hanno davvero reso lustro e illustrato Il Pioniere, ma anche altre figure di grande rilievo nella cultura italiana di quegli anni, negli anni della ricostruzione. Parliamo per esempio di Marcello Argilli, sceneggiatore di primo livello che tanto tempo ha collaborato con Rodari. Parliamo di disegnatori della taglia di Raul Verdini o di Vinicio Berti. Tutti questi personaggi in qualche modo hanno un filo conduttore che si ritrova nella mitica favola di Pinocchio di Collodi, sulla quale o nei testi, nelle filastrocche sulle tavole, si sono confrontati nel pioniere e fuori dal pioniere questi nostri eroi. Tra gli altri appunto Vinicio Berti, peraltro importante artista dell'astratismo toscano post bellico. Beh, Vinicio Berti ha creato un suo Pinocchio, un Pinocchio trasgressivo, un Pinocchio che vede la parte migliore quando è il burattino e non il bambino normale graziato dalla fatina, con delle tavole che sono davvero rimaste nella storia delle illustrazioni per ragazzi e che così lui descrive. Nel Pinocchio ora c'è un itinerario sostanzialmente che è una tendenza

ma nella cultura cattolica dell'epoca appunto le braccia nude e le gambe sopra il ginocchio nude non si dovevano vedere, e quindi quelle bambine, si dice sulla stampa, con intento chiaramente malevolo di forzare la realtà, erano tout court nude. Ecco, quindi sono forme di rifiuto sostanzialmente di quella che viene vista come una società, come una cultura alternativa, perché la cultura cattolica degli anni 40 fino a metà degli anni 50 sostanzialmente cosa fa? Cerca di ereditare il monopolio educativo della gioventù che era stato proprio del fascismo. Da bambino mi portavano alla messa ed io seguivo la funzione con un'aria un po' perplessa. Il prete stava in piedi sull'altare col microfono, spiegava i passi del Vangelo con tono monotono. Col tempo, con la scusa di giocare all'oratorio, mi infilarono nel mucchio catechismo obbligatorio. Perché non sta bene, non puoi essere diverso, emarginato come pecora smarrita dentro un bosco. Per bene adesso di le preghierine, non dubitare mai nell'esistenza del Signore, lascia stare le tue fantasie sessuali di bambino. Quante volte ti sei masturbato il pistolino? Il prete in molti casi è un uomo molto presuntuoso, nonostante l'apparenza di un sorriso zuccheroso, crede di essere il depositario di una verità assoluta. Ad ogni tua obiezione rigira la frittata. Prete, io non ho voglia di ascoltarti. Prete, non hai il diritto di insegnarmi niente. Sei bravo ad inventare e raccontare favole per... Un braccio di ferro davvero forte quello tra la Chiesa e il pioniere, e non solo e non tanto per le esperienze editoriali, ma per questo, tra virgolette, ardire dei pionieri di organizzare nel territorio i ragazzi. Sono i circoli dell'API, associazioni pionieri italiani, che in particolare in alcune regioni come la Emilia Romagna, la Liguria, hanno un grande successo e che sono in qualche modo visti estremamente male dal clero ufficiale. Ma cosa facevano questi ragazzi legati ai circoli del pioniere? Facevano un'attività scautistica, ma facevano anche dibattiti, improvvisavano ingenue rappresentazioni teatrali, insomma, era un mondo, una costruzione che cercava di andare oltre gli orrori della guerra e gli orrori del fascismo. Siamo andati allora a sentire Sergio Martelli come testimone oculare, ben a conoscenza dei fatti, in quanto al tempo capoguido di questi gruppi dei pionieri, più tardi organizzatore dell'ARCI, insomma una figura che di associazionismo se ne intende. I bambini erano un po' dopo la guerra, erano anche bambini poveri, anche abbandonati, avevano anche una necessità, diciamo, di ricostruirsi un'identità, no? C'era una situazione anche di emergenza. E queste forme associative davano un momento di aggregazione, di sicurezza e anche, diciamo, degli elementi di formazione. Certo. Sergio, senti, tu sei stato segretario provinciale a Bologna, quindi l'esperienza, sì, bolognese la conosci bene. Che cos'è che facevate nel concreto con questi bimbi? C'era tanta attività. Ecco, intanto la stessa forma di organizzazione era importante, la partecipazione dei ragazzi alla loro attività, ecco. Quindi c'erano delle forme di auto-organizzazione, con forme anche abbastanza originali, quale la formazione delle pattuglie, i reparti, si richiamava un po' tutto questo sistema organizzativo, un po' l'organizzazione dei partigiani. Certo. Pensa che i diffusori del giornale Il Pioniere si chiamavano staffette, quindi c'era tutta una... L'attività che si svolgeva era molteplice, c'erano attività ludiche, artistiche, sportive, molte varie, perché poi ogni reparto si organizzava, aveva i suoi animatori che ognuno portava poi le sue esperienze, per cui si poteva fare sia attività di, per esempio, feste, incontri, anche delle serate artistiche dove i ragazzi potevano fare, chiamiamolo loro, degli sketch. Un bel mattino al sole, ma c'è un pioniere, fioriva le viole e Il Pioniere è una rivista di primo piano fino ai primi anni 60, poi a poco decade sia nella qualità che nella quantità, per poi chiudere nei primi anni 70. Perché questo declino e questa chiusura? Dipende sicuramente da una sorta di fuoco amico. Molti nel Partito Comunista Italiano stesso erano contrari a questa che veniva considerata il fumetto una subletteratura, oppure accusato di essere troppo americanista. Ma in verità non fu solo il fuoco amico ad affossare il Pioniere. Negli anni 60 c'è un'evoluzione del fumetto, arrivano i Peanuts, arriva Corto Maltese e il Pioniere subisce il contraccolpo di questa novità, come la subirono altri fumetti precedenti come il Vittorioso di Iacovitti e lo stesso Corriere dei Piccoli, un gigante, dovette riformare la sua letteratura per la gioventù per non perire. Fu un cambio di paradigma del fumetto che ci ha portato progressivamente ai giorni nostri. Ma su questo cambio e questo declino del Pioniere ascoltiamo il parere di Yuri Meda, storico dell'Università di Macerata. La nascita del Pioniere non è una nascita lineare, nel senso che è vero che in qualche modo il Pioniere è emanazione diretta del partito e nasce per sostituire questa iniziativa privata, ma crea comunque molte tensioni, nonostante venga affidato a due persone, diremmo così oggi, di provata fede, no? Dina Rinaldi, ma poi anche Gianni Rodari, che avevano una chiara impronta ideologica e che erano degli uomini di partito, però ciò non toglie che comunque ai vertici massimi, e questo è risaputo insomma, soprattutto Togliatti, ma poi attraverso Togliatti anche Nil Deiotti, avevano espresso di numerose volte la loro contrarietà rispetto all'utilizzo di quello che veniva interpretato ancora all'epoca come un strumento di comunicazione prettamente americano o comunque molto americaneggiante, insomma eccessivamente americaneggiante. In modo comunque è vero che il Pioniere poi andrà a terminare, andrà a calare progressivamente, però è anche vero che secondo me al di là poi di tutto quello che si può dire, di tutto quello che potremmo star qui lungamente ad elencare sulle tensioni interne, su tutta una serie di altre cose, e c'è anche da considerare che il Pioniere comincia a seguire una curva negativa, una curva discendente, così come tanti altri periodici dell'epoca. Cioè c'è un periodo in cui, e questo grosso modo viene localizzato dopo il 68, all'inizio degli anni 70, in cui tutta una serie di nuovi mass media che entrano nella realtà quotidiana e che rivoluzionano in qualche modo i consumi culturali infantili, penso alla televisione, penso a tutta una serie di altri fattori, vanno in qualche modo a far calare drasticamente le vendite. Questo accade tanto più velocemente all'interno di un periodico come quello del Partito Comunista, che era fortemente vincolato a una base, diciamo così, a un nucleo che era quello appunto giovanile, che stava all'interno del partito. Teniamo anche conto che quelli sono gli anni in cui questo nucleo, questa base giovanile, subisce un processo di scollamento molto forte da quello che è il Partito Comunista. È il momento è la stagione dei movimenti, la stagione in cui nascono numerose nuove realtà, anche no? La famosa sinistra extraparlamentare. Quindi insomma c'è tutta una serie di dinamiche anche sociali, economiche, politiche che portano a questa crisi. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va?